Thank you. Fortune presents gifts not according to the book. Fortune presents gifts not according to the book. When you expect wishes, it's new. When you expect fruits, it's wisdom. What various paths have followed in distributing honors and possessions. She gives awards to some and penitence cloaks to others. When you expect wishes, it's new. When you expect fruits, it's wisdom. Sometimes she robs the chief goat herd of his cottage and goat pen. And to whomever she fancies the lamest goat has borne to kiss. When you expect wishes, it's blue. When you expect fruits, it's wisdom. Because in a village a poor lad has stolen one egg. He swings in the sun and another gets away with a thousand crowns. When you expect wishes, it's blue. When you expect fruits, it's wisdom. Stasera musica da camera su 8 Hz, ovvero quello che gira nella mia camera, ecco. È anche un invito a mettersi lì, ad ascoltare un po' questi deliri di tappeti che spero che proprio influenzino le vostre 8 Hz mentali. E dunque continuiamo l'ascolto come se fosse un salotto, il nostro salotto di Radio Wombat. Ricordo quindi qualche social, c'è cioè il Facebook il Twitter, vabbè, poi c'è il sito che ovviamente conoscete, se no non ci stareste ascoltando, e poi soprattutto la posta, che per noi è uno strumento molto importante per capire se le cose stanno andando bene, che si chiama postawombat@insiberia.net. Vi invito a scriverci, ecco. Andiamo avanti nel nostro salotto, bello caldo spero, e sentiamo ancora qualcosa. E se vi piace 8 Hertz, vi consiglio anche di ascoltare tutti gli altri programmi che trovate scritti nel palinsesto del sito. Comunque ve li ricordo, Slick Chick, che ogni settimana presenta un argomento sul quale ruotano vari pezzi un po' di ogni genere, 3000 Siepi, che parla di sport e musica, l'Accademia della Brusca di linguistica, che prestissimo ritornerà sempre più agguerrita, La Fuga del Gatto di classica, Soul Time appunto di funky e soul, Il Rovescio della Medaglia di prog, Music Vox Populi per chi si propone come band emergente, La Revancia sul punk e sull'hardcore, Fuoco alle Polveri, che è un programma contenitore di informazioni e di musica, Tonight Alive con preziosissimi concerti live introvabili un po' di tutti gli anni, Mortal Wombat sul rap italiano e europeo e non americano, Uru, sulla musica africana, e per ora basta, credo di non aver lasciato nulla. Coccoli al silicio, un'altra trasmissione, e per ora ci sono le dirette ma anche le repliche da un paio di settimane circa, per cui insomma programma vario, poi musica a rotazione nel resto delle ore, per cui ascoltateci, siete su 8 Hertz, su Radio Wombat, e presto ci sarà anche il vincitore del contest sul logo, per ora a presto. Thank you.